Allora, siamo in diretta con un compagno da Lampedusa. Sappiamo che c'è stata una protesta da questa mattina e che oggi pomeriggio è scoppiato un incendio nel CIE. Se ci puoi raccontare un po' che cosa è successo, come sta andando? Sì, no, praticamente c'è stata la protesta da parte dei migranti sul fatto appunto dei rimpatri. E già insomma la protesta è iniziata da ieri, che stanno facendo comunque lo sciopero della fame e proteste di vario tipo. Anche su se stessi, senza, hanno fatto anche delle lesioni su se stessi. E appunto stamattina, siccome stanno comunque stanno facendo questi rimpatri a rilento, caricando gli aerei a 30 persone alla volta per ragioni di sicurezza, e insomma le condizioni sono veramente estreme. E appunto oggi c'è stato un appiccamento in una delle strutture del centro del CIE. E comunque l'incendio è stato domato da parte dei vigili del fuoco e c'è stata comunque la fuga di un centinaio di migranti. La situazione è questa. Senti, la situazione attuale è questa. Senti, ma diciamo i migranti hanno voluto fare questa protesta per richiedere qualche cosa o semplicemente come diversivo per fuggire dalla prigione, dal CIE? No, la protesta e l'appiccamento è stato appunto perché per il discorso dei rimpatri e comunque questo modulo diciamo di rimpatrio è assolutamente fuori legge perché non vengono rispettate le pratiche di ognuno, perché comunque a Lampedusa non c'è un giudice, non c'è un tribunale dove può appunto sbrigare queste pratiche, perciò vengono fatti direttamente dall'isola senza consultare appunto un giudice, niente, praticamente appunto non hanno assolutamente consulenza e il caso non viene studiato singolarmente, ecco, perciò loro, conoscendo comunque questo diritto, si sono ribellati. Ho capito, senti una cosa, ma la situazione ora lì è stabile oppure i migranti stanno continuando la loro protesta? Allora, guarda, in questo momento purtroppo io non sono vicino al centro, ma ho saputo che alcuni di volontà propria sono rientrati al centro. La situazione diciamo si è calmata, anche perché c'è stato anche da parte dei ragazzi che lavorano all'interno del centro, della Lampedusa Accoglienza, si sono rifiutati di lavorare appunto perché i migranti stavano protestando. Adesso diciamo che sta ritornando alla normalità, nel senso che alcuni migranti sono rientrati volontariamente e altri sono scappati con le forze dell'ordine comunque che li stanno cercando. Ho capito. Vabbè, senti, se non hai nient'altro da aggiungere, ti ringraziamo per questo contributo e casomai ci sentiamo successivamente. Va bene, ok. Va ci bene. Sentiamo allora. Un abbraccio, ciao. Ciao.